La manovra va nella direzione giusta, intanto in termini di saldi, i saldi sono importanti se si mantiene appunto il pareggio di bilancio anticipato al 2013. Poi ci sono alcune misure di natura che io definirei strutturale importanti, la decisione di mettere in Costituzione l'obbligo di pareggio del bilancio dovrebbe aiutare molto ad aumentare il grado di fiducia dei mercati nei confronti del Paese, l'allungamento dell'età pensionabile per le donne, la di fatto eliminazione delle competenze delle province che dovrebbe portare dei risparmi permanenti alla gestione dell'amministrazione pubblica e anche l'uso dell'aumento dell'IVA invece che della imposizione diretta per raccogliere risorse per raggiungere il pareggio di bilancio.